10, c'è qualcuno? Hola, c'è qualcuno qua? Sicuro 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10, prove tecniche di trasmissione, CQ, CQ, CQ. E vai, fatti tornare il resto. Allora vado perché è abbondante, esattamente 999.000 euro. Ma vuoi tu il resto? Apri il borsellino, dai, taccagno. Sì, se sono taccagno io. Proprio i soldi non ci guardo, guarda. Lo so, guardi solo la televisione. Natali, aiuto. C'è la televisione accesa, aspetta la sera. Mamma mia, con questa televisione ti sta rimbambendo. Aspetta che spengo anche la mia. La tua manco si... Ciao Cristi, ciao. Ero a Porto Torres poco fa, Gianfra, a pescare. Attacca, piove, ho visto questa nuvola, ho detto io ritiriamo tutto che adesso piove, ha fatto quest'acqua. Sì, anche qua, infatti la cosa strana è che c'era un bel sole, quasi quasi mi metto a fare qualcosa fuori, poi ho sentito questa cosa, guardato meglio, sta piovendo a dirotto, è uscito il sole proprio, ma che strano. C'è sempre questa rompipalla di cornacchia che se ne va sul traliccio, ma non c'è altro posto da andare con tutti gli alberi che ci sono in giro. Ma cammina e becca, cosa mi sta beccando? Adesso fra poco sentirai, non mi sentirei più perché si rosicchiano anche il cavo d'antenna queste. Tiragli una fucilata. E dimmi una cosa, ma... La cornacchia è vero che dura, quindi anche difficile da far fuori, perché qualcuno ha detto che basterebbe una carabina, anche quelle di libero, come si chiama, di libero uso, no? Sì, ma se vuoi ti presto la calibro 22 col cannocchiale, allora dentro casa la spari, tu, tanto non fa rumore, e imbatte 1500 metri, quindi se la becchi con quella la passi da parte a parte. No, sono utilizzare la calibro 9, che cosa c'entra? Ma poi si sente troppo e mi dà fastidio. E il coso, l'aria compressa, anche quella è baccanosa e fa boh! Scalfisce anche il coso, quei blocchetti, no? Cioè presenti di cemento. Se le spari lì si conficca dentro. Quindi penso che ce la faccia a farla fuori, c'è anche il mirino telescopico. Sì, ce la fai sì a farla fuori. Se non la spari troppo lontano dovresti farcela. Ma guarda, ho preso le misure quant'era? A 25 metri, anzi una 30 su una lavatrice vecchia. Ho sparato la lamiera e l'ha ingobbata, le ha tolto la vernice bianca. E poi ci sono quei piombini, quelli proprio duri. Io ho bucato con quella d'aria compressa che avevo io la lamiera di zingo di quelle casette per attrezzi, bucata da parte a parte. Vendono quelli lì. Ma quella è la lamiera? Sì, bucata da parte a parte. Capito? Vendono quei piombini fatti apposta. Non sono di piombo, no. Però se becchi con quello, vedrai la passi da parte a parte, ma come dice. Ma come sono in acciaio? Via, li vendono in armeria. Per la carabina aria compressa lì. Ho capito. Però di cosa sono fatti? D'acciaio? Certo. Ma quelli mi fanno fuori la rigatura, lo sai, sì. No, non te la fanno fuori la rigatura, sono di quel calibro giusto e non gli fanno niente. Poi spari solo alle cornacchie tu, non è che stai sempre sparando di quelli. Sono tipo quelli dei cuscinetti, dei cuscinetti a sfera, ovviamente sono molto più piccoli e ovviamente sono anche molto più pesanti, però. No, sono leggeri, solo che sono più resistenti, là, del piombo, il piombo si schiaccia, invece... Curto dritto! Maledizio! Che stress! E cosa ha detto? Ha premuto il microfono e ha detto wah! Perché c'era la dottoressa, quando sente gente in strada non vuole che passi, lui è il sindaco di questo vicolo, capito? Non vuole che passi nessuno. C'era la dottoressa fuori, Cristina, quella che era qui poco fa, e l'ha abbaiata lì. C'è qualcuno che sta chiamando, mi sembra. Avanti. No, perché non mi sentite? Avanti, chi chiama? Pronto, mi senti? Adesso sì. È piovuto, guardate. Qualcuno sta chiamando, cazzo, ma non arrivo più. Vabbè, qui il telefono. No, sono entrato a salutarvi, dai. Già ti sentiamo, ciao Claudio. Natalie, lo sai che sono rimasto di stucco anche stasera, quindi pensavo che fosse qualcuno che lo metteva, e invece no. Quello del 15 a 100, cioè a 27.135, che non sono riuscito neanche a trovare su internet, tra l'altro, è una stazione che sembrerebbe per le navi. Ha detto di nuovo il bollettino e poi ho capito così, dato che era un po' in lingua riconoscibile, stazione radiotelefonica di non so dove, e poi l'hanno chiamato e si sentiva che stava pensando di passare una telefonata, perché si sentiva il segnale ti. Quindi non ho capito comunque, perché ho controllato in Russia, e in Russia quel canale è come il nostro canale 5 per tutte le chiamate in tutta la Russia, quindi deve essere di lì nei paesi limitrofi, perché arrivare così forte in AM poi. Figurati, sarà tipo servizio telemarmi. Sì, ma sui canali della 27 sembra strano. Comunque arrivava, stamane c'era anche un operatore maschio, e stasera c'era una donna che stava facendo quel servizio lì. Comunque si sente, tutto, ovviamente di propagazione, stamane si sentivano anche gli americani, una cosa spaventosa la propagazione che c'è, a tutte le ore, poi nonostante questo tempo che c'è. E infatti, guarda, Antonella mi ha dato quei due portatili, mi ha dato, stanno caricando, è la Midland sono. Ma sono PMR o DPMR? No, marini sono. E cosa te ne fai? Ascolto, perché quando io ce l'ho la banda marina nel ricevitore, però se metto quella lì mi si blocca quando dicono le previsioni. Quindi, se voglio ascoltarle, le ascolto da lì. Capito? Perché no, l'esclusione non la usi? A escluderla. È semplicissimo, guarda. Aspetta che accendo la luce e ti dico il tasto, che c'è il tasto, tipo come si chiama, tanto tu c'ho anche io quello da battaglia, no? Aspetta che cerco la luce. Allora devi premere quello, il secondo pulsante da destra, che c'è scritto, anzi il terzo, che c'è scritto LO. Ok, K. Premi quello e lo salta. Infatti, se non mi si bloccava sempre in chili, mi si bloccava. E allora l'ho tolta quella frequenza e uso solo quelli personali che ho messo io. Vabbè, tanto oramai non mi sento grandi cose, figurati che io scendo spesso a Porto Torres, anche lì c'è poca roba, già ci sono poche navi, proprio il minimo essenziale. No, sono da parecchio anche che non sento pescherici, vabbè, che non so, staranno uscendo poco, che ne so, però sull'otto prima c'erano sempre, si facevano la chiacchierata, adesso nada. Nada de nada. E vabbè, telefono a mio fratello e gli dico, vabbè, forse non stanno uscendo, mia, adesso c'è tempo brutto, c'era mare oggi, mauroso. A proposito, non hai preso niente? No, eravamo appena arrivati, poi ho visto questo nuvolone, adesso io ritiriamo tutto. Due secondi dopo che abbiamo caricato tutto, attaccata a piovere, uia. La serie è come siamo fortunati, no? Sì, siamo scesi così a farci due tiri, e boh, tanto per non stare in casa mio e quell'amico mio. Ha fatto bene. Meno si sta in casa è migliore. Io oggi ce la sta male presto, ma solo perché in certi giorni devo lavorare per forza a casa, quindi mi tocca rimanere come un fesso guardando lo schermo tutto il giorno, così almeno divento cieco del tutto. Allora, qua adesso si sta depositando un bel nuvolone nero, speriamo che non vengano anche i tuoni o i fulmini, perché insomma con queste nuvole così basse c'è poco da stare allegri. Sì, l'ho visto anche da qua, c'è un nuvolone nero, e infatti ho detto mamma mia, va ne varrà aria, Giudizio, quando siamo arrivati qua c'era quel nuvolone, mamma mia, ho detto. E tiro di più che si sta levando, stamattina c'era anche il maestrale, mi è sembrato, ma anche un discreto freddo e c'è la sera. E infatti io c'avevo il giubbotto e la felpa, quindi sicuro, c'era un vento a Porto Torres del Pauroso. È così. Cosa ti volevo dire, boh? Non è tra più nessuno, a parte quelli che mettono una portantina e scappano. Io non lo so, cosa mettono a fare la portante? Non ho capito se non vogliono parlare. Ma parliamo col muro. Stamattina poi quel vento sta piegando l'antenna, no, la Game Master, ma neanche il pelo le ha lisciato. E infatti, chissà come mai se gli è spaccata in punta a coso a Gianni. Beh, infatti io me la compro come la tua, originale, come Gianni c'aveva l'originale proprio, beh, pure se gli è spaccata, boh. Ma quindi mi sentite per salutarvi e basta, mi sentite, sì? Ehi, che ti sentiamo, ti ho salutato, Cla, forse non hai sentito tu a me. No, sono uscito un attimino fuori, Vabbè, sono entrato per salutarvi, non so molto come sto andando, sono col Graxi e Saletta. Se mi sentite vuol dire già sto uscendo, Ciao Gianfranco, ciao Natalino, alle prossimine, ciao. Ciao Cla, riprendi Gianfranco. Ok, dici almeno com'è il tempo dalle parti tue. Sta più avvicinando, leggero, sta più avvicinando, però non freddo, non ce n'è vento, non ce n'è, sta a posto. Sta più avvicinando, almeno una fia al prato, così stasera non devo uscire. Ok, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Ciao, bello, bel freddo, bravo. C'è anche la temperatura è calata molto comunque, Natale. Sì, infatti, già me ne sono accorto già. Noi eravamo dentro la macchina per il vento, no? Dopo si è messo a piovere, perché ho visto questo nuvolone e abbiamo rilasciato, perché noi eravamo dentro la macchina per il vento che c'era. Chissà come ha fatto, c'era gente che è andata a Calamari lì e doveva rimanere per forza fuori. Io invece ho messo le due canne che avevo con i cavalletti, piccoline sono, no? Come canne, e ci ho messo il cucchiaino, già suona se attacca. Infatti, l'unica cosa è stare tranquillo, solo che se è grosso poi sporta via la canna, anche lui il campanello. Sì, adesso gli ho vento, praticamente non ce n'è perché vedo che non si muove niente qua, però il poco che c'è è sempre da nord a nord-ovest, però c'è già buio, sta già facendo buio. Le giornate si stanno riducendo di parecchio. Mi stai dicendo che a qualcuno si è spezzata l'antenna, perché sono fissate a mettere i tiranti sul radiatore magari. I tiranti sul radiatore non si mettono mai, mai, qualunque tipo sia l'antenna deve rimanere libera. No, non ne aveva tiranti sul radiatore, no. Assolutamente, non ne aveva. A Gianni Fiorusa gli è rotta quell'antenna lì, in punta. A quanto capita l'ha riparata lui. Beh, non capisco come ha fatto a rompersi. Avrà piazzata male. Le cose non... Questa qua ha preso anche quei tre colpi che mi hanno inclinato il tubo, infatti l'ho già abbassato tutto, lo devo segare. Però l'antenna neanche il pelo l'ha lisciata. È collegata è collaudata per 160 km orari, che non è poco. Infatti non capisco come ha fatto a rompersi quella di Gianni. Gliel'ho installata io, gliel'ho piazzata io l'antenna. Ma sto cercando di capire come ha fatto a rompersi. Con 8 metri ancora peggio Claudia. No, non è così, dipende da che zona la metti, infatti quelle vanno abbastanza basse quando sono così lunghe. La mia è bassissima, è molto bassa, sto usando quella adesso, per certo non avrei potuto montare carbonazzi questa, però qua sì. Quella bora, quel vento che ha fatto, praticamente piegava, ma no, è alluminio bello robusto, veramente una bellissima antenna, costa una barca di soldi, però una bella antenna, prestazioni altissime, c'ho segnali allucinanti, è bassa di QRM, veramente molto molto bassa, QRM è... quando proprio c'è molta propagazione sale a 1, 1,5, se cambio 40 va a 5, 6, 7 QRM. Va bene, dai, vi saluto, ok, ci sentiamo, ciao Natalie, ci ascoltiamo le prossime, sono entrato per salutarvi, come faccio sempre, ma radio, poco mi sto facendo, e va bene così, ciao, vai Natalie. Ciao Cla, ciao, buon proseguo, fra un po' io lo stesso mi allontano che devo fare qualcosa verso le 7:30, va bene, riprendi Gianfra. Sì, la tua è un po' più alta, perché anche la Game Master comunque sono 7,35 metri, una cosa del genere, e quindi è abbastanza alta. E niente, va bene per installazioni che non richiedano installazioni in altezza, dai, in parole povere, che non sia pesante. Tutto lì. Va bene, Cla. Esci a fare qualche domanda. La pioggia fuori c'è un pantano. Poca acqua ma molto fango. No, quello c'è un prato, non mi sporco neanche, ma non ne faccio, ce li ho ancora in frizze, già pronti a mangiare, non me la fotti nulla. E vabbè, già fra, però questa è superiore perché è 8 ottavi, 8,50 metri, c'ha due antenne, io lo sai com'è fatta, ottima, vabbè, io l'ho messa proprio perché lavora bassa, capito, così non ho problemi di vento. Va bene, dai, vi saluto, non riprendo più, vado a fare qualcosa in cucina e ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. E comunque io dicevo, vai a fare lumache per sport, perché adesso c'è già buio, quindi ci andavi con la pila, ci stavi un paio d'ore e ti allenavi. Ma sono stufo di, da quando sono qua, gli ho regalato, mi ha regalato tante, mio fratello ne ho già dato due bidoni pieni, anche uno da poco, ma lumaconi soprattutto, un bel lumaconi sono qua. Capito? Poi io me li metto nelle smollento, li pulisco, li smollento appena appena e poi me li metto in freezer. Li tolgo, non faccio altro che dare un'altra leggera smollentata, li condisco e me li mangio. Capito? Va bene, ciao a tutti, ciao ciao. Ok, ciao classe, anche qua io neanche le cerco, però ce ne sono tante, oramai sono al pascolo, sono grandi, enormi. Ciao, riprendi Natale. Allora sai che ci andava veramente mio figliuccio e lei trovava, di notte andava, ma dimmi tu, questo ragazzino, e poi se le vendeva la zia. Vabbè, io sto scherzando, Natale, però mi è capitato di entrare molto tardi, al buio, e dovevi stare attento anche dove camminavi, ma questi lumaconi che erano enormi, sicuramente la notte ne escono tantissimi. Evidentemente sì, perché le trovava Fabio, mio figliuccio, e poi li vendeva la zia, si faceva i soldini. Era un ragazzino, mico, andava di notte, quasi mezzo di sera andava a prendere le lumache. So che ti fa beffa perché c'è l'umido, esce la brina, eccetera, quindi no, non è molto, insomma. No, io mi ricordo quando uscivo in mare a pescare di notte, quando rientravamo c'era più acqua di brina che acqua di mare. Sì, me lo posso immaginare. Io andavo con Franco col camper a pescare di notte, siamo rimasti anche 2-3 giorni fuori, ma ci avevamo tutto lì, ci facevamo da mangiare, il caffè ogni tanto, insomma, stavamo bene, là. Io c'avevo la barca dove ce l'aveva Vitto, non so se lo conosci, un collega radioamatore, che c'aveva la pilotina. Noi andavamo intorno alle 4, eccetera. Lui invece direttamente la sera, quando si poteva ancora pescare, adesso non si può più perché c'è il parco. Non so quanto si trattenesse, perché poi noi accendevamo le luci e rientravamo in barchina. Boh, non so neanche se c'è ancora Vitto. Ma non lo so, io l'avevo conosciuto tantissimo tempo fa, Vitto. Proprio di persona l'avevo conosciuto. Anche lui ho saputo che c'aveva dei problemi seri. Quindi, boh. Non ho guardato quando passo lì se c'è ancora un'antenna, lo sai, ma penso che non ci sia, c'è rimasto il palo, c'era una direttiva sul tetto. Sì, lo so. Sì, le senti, una preparazione. No, c'ho lo squelch, ho messo lo squelch, sento a te, a Claudio e Bu, e poi il silenzio è più assoluto. Infatti, così è. Si sente, mi sono dimenticato di dire a Claudio come mi sentiva, perché sono con questo coso, con quello là che avevo quando era stamane, e col suo microfono non ho fatto in tempo neanche di metterci il riduttore, perché era troppo lungo, l'ho tagliato, dovevo accorciare, e quindi ci ho messo questo così, ma non è tanto scomodo, dai. Perlomeno posso stare lontano, perché di bello c'è che c'è il cavo molto molto lungo, l'ho spiralizzato molto lungo. Così è bello. Questo qui invece è corto, il cavo a spirale, quello del Superstar. Quello lì lo devo aprire il microfono e vedere un po' cosa mala sorte ha. Quello lì non so se abbia la capsula dinamica o quella elettrica, pensa che adesso li stanno facendo tutti a condensatore microfoni. Questo è il microfono suo originale, quello del Superstar. Solo che un barrasone è troppo grande, invece quello della Nittone è piccolino, il microfono è bellissimo, tipo quello del Campada. Ma guarda che non ci vuole niente, anche se c'è una carcassa di microfono vecchio, lo schemino è banale per metterci un microfono a condensatore, serve solo una piccola alimentazione e basta. Sì, infatti. 9:10, sì, buonanotte, 7:10, anzi, più correttamente alle 19:10. Sì, nell'orologio di qua dice così lo stesso. Vabbè, in realtà mancano pochi secondi, sono a 09, però arrotondando. Uiaia, ma... ancora rosso è il coso del caricatore, ma non so se deve diventare verde quando è carichi, quando sono carichi questi affari. Io ho messo prima di uscire, verso le 3. Ma si sentono almeno? Cosa si sentono? No, se li ha provati. No, sono nuovi, erano in scatola. Sono Cobra, con le marche lì, o anche poi invece c'è la Cobra che le faceva, anche la Midland. Sono i pacifici della Midland. Quindi c'hanno tutti i canali nautici. Sì, sì. Anche quelli internazionali. Todos. Io invece qua c'ho il Neptune che è programmabile. Ma questo c'ha tutto questi portati. E da lì, dimmi una cosa, da lì le senti le imbarcazioni quando comunicano la distanza, che sono a 5 miglia, con i piloti? Dovrei sentirli, su quale canale sono? Io non li ho provati questi ancora. Guarda, la chiamata sui piloti è sul canale 12. E adesso me lo metto il canale 12 in uno, così almeno vedo un po'. È fatta, vabbè, in partenza credo sia alle 20, 20 e 30, una cosa del genere. E come sono gli ultimi due, Gianfra? 5 o 6? Come sono gli ultimi due, 5 o 6? Non ho capito, riferito a che? Alla frequenza dei piloti, gli ultimi tre come sono? Uno già lo so, i primi tre dovrebbero essere tutti uguali. Per dire il vero, aspetta, dovrei accendere la radio, perché la radio sua, quella, mi dà solo il canale, che è il 12, è 156, vediamo un po', aspetta che lo devo accendere, che qua la cosa è un po' lunga. 425, 156, 425. Ciao Giulio, buonasera. Io mi sono perso. No, 425 c'è il meteo, ciao, buonasera, i piloti non sono 425. 425 c'è la radio costiera. Ciao a tutti, ciao Claudio, ciao Gianfranco, ciao Natalino. Dai, lo so molto bene perché ho fatto la terapia stasera, dunque ho dei bolciuri, madonna mia. Dai, continuate, non ho voglia di parlare, dai. Se prende pure Gianfranco. Ma se sono bolciuri di stomaco, usa per i casi d'emergenza, lo uso anch'io, il Gaviscon, quelle lì, le compresse da sciogliere in bocca. Dunque, adesso te lo trovo, lo dovrei trovare, aspetta. 425 era la radio costiera, qui stanno andando il meteo. Ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato. Ma non mi interessa, ogni tanto io vado su quelle marine ad ascoltare. No, quella marina è 4,50, è del 68 quello. Dove cavolo è finito? Meno male ce le ho tutte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi l'8 è 156, 400 che è quello dei peschi ricci, poi abbiamo il 12, è 600, accidenti, lo sapevo, 156, 600, canale 12. Il 12 sì, vediamo se sta trasmettendo qualcuno, ve lo lascio lì, dai. Va bene. Continua con Natalino, dai, vi ascolto e sto facendo cosa, però non riprendo che, a dopo. Poi Eugenio ha dato anche quei canali dove lavorano loro, che sono quelli comunicazione portuale, che è il 69, è un bel numero, poi c'è il 70, no, il 79 perché credo che sia quello dedicato al 10, sì. Quindi, dunque il 68 abbiamo detto che è 4,25, il 70 è il 5,25, che però è riservato. C'è il 71, 5,75, il 72, 6,25, e sto dicendo. E sono canali prevalentemente per comunicazioni di punto a punto, di lì al porto. Ehi, ehi, va bene, stavo ascoltando anche gli amici tuoi sull'R7 Alfa. Va bene, dai, ci sentiamo, grazie Giaffa. Sì, ce le ho tutte quelle marine, non c'è problema. Ogni tanto, ti ripeto, mi fa piacere andare a ascoltare due cose. Va bene, ci ascoltiamo alle prossime, ciao a tutti, buon fine serata, ciao ciao. Ciao. Purtroppo sentono pochi pescherici, ma penso che sia anche perché c'è molta crisi, a meno che non ci sia il blocco, come si chiama, quello che fa la regione ogni anno. Va bene, dai, ci siamo anche noi, ciao ciao. Va bene, ciao, buona, vediamo Natali. Buia. Aio, dai. E cosa do? C'è il fermo biologico, ce l'hanno detto stamattina. Vabbè, che parlino tra di loro, cosa vuoi che ti dica? A posto di andare lì in quel bar dal porto a ceramizzare, usano due portatili e così almeno passano il tempo. Oi, Natalinus. Ehi, già me lo metto sul canale 8 io, uno. E l'altro, c'è anche lo scanner, puoi scannerizzare tutti i canali qua. Sì, lo so, però se non c'è antenna, viene un po' male, ma che non c'è qualcosa da mettere fuori. Antenna, Michele. Ma già gliela faccio. Vediamo un po'. Che gioco quello. Natali, io ho detto che strano, io non sento nessuno, poi mi sono ricordato che avevo staccato il commutatore, l'antenna è su terra perché c'erano le nuvole. Oi, andiamo bene. La vecchiaia. Mi sentito lei, Gianfra, la vecchiaia adesso. Assolutamente d'accordo. È il rimbambimento che si fa avanti. E quindi è così, c'è poco da fare. Se tutto va bene siamo rovinati. È alla grande. E poi non mi ricordo neanche l'antenna che devo mettere. Se è una o se è l'altra. Non forse ho sbagliato anche l'antenna. Noia, proviamo questa. Sì, forse adesso c'è. Dovevi mettere un affare nel capo, un pezzo elettroisolante di quello del carrozziere, e segnavi cosa era, capito? Se no diventi scemo con le antenne. No, perché a volte mi dimentico i numeri, capito? Siccome sono quelli grossi, hanno i numeri, ogni tanto cambia qualcosa e quindi le indicazioni non sono chiare. Cosa ci vuoi fare, Natalia? E così è la vecchiaia. E carogna. E tu adesso gliela faccio l'antenna e attacco il portatile all'antenna esterna, così non me l'ascolto, perché non lo so col gommino se ascolto. È difficile, Natale, perché quando sono canali tipo del porto e quelli lì, l'apparecchio automaticamente esce a bassa potenza secondo le normative. Vabbè, avremo modo di provarli, finisco di farli caricare e poi vediamo, li accendo. Oh, io adesso devo uscire fuori un attimo perché mi devo chiudere la persiana, perché qua fuori c'è già un buio abbastanza, c'è un po' di luce verso Alghero, ma qua è già sceso il buio, sta andando. Proprio ho cambiato anche l'orario questo mese, che allegria, a quest'ora sono le 6 e mezza, neanche le 6 e mezza. Sembra che sia l'ultima volta che succede, poi rimarrà l'ora legale, almeno tanto oramai non combini niente, se no la sera c'è talmente buio con l'ora solare che è una paranoia veramente. Infatti, subito buio di vento. Dammi un attimino che esco fuori, mi sa che freddo, speriamo di no. Ah, sta piovendo. Aspetta che mi devo prendere qualche cosa. Sì, insomma. Nel frattempo cucino anche. Infatti, anche Sì, adesso finisco di fare questa roba qui e poi mando. Ci sentiamo alle prossime, dai Gianfranco. Ok, alle prossime Natali. Saluti anche a Giulio, se ancora in ascolto, e a tutti gli altri. Me ne stavo dimenticando. Ciao Giulio, se sei in ascolto, e che altri ci fosse in ascolto, io me ne faccio in QRT. Ciao a tutti. Sì, ciao, ciao Gianfranco, ciao Natalino. Vabbè, anche io ho detto che la centro giù, la volta non si dorme con questa pulsione. Vabbè dai, già sta, interessante che vado bene il resto pure. No, non so cosa dire, purtroppo tutte le settimane quando faccio questa terapia pure rimango tutto il giorno sino anche alle volte anche all'indomani mattina con questa pulsione, è una cosa, ogni 10 minuti devo andare. Ho la sensazione di dover urinare, invece no, non c'è niente, perché ogni 10 minuti però questo pulsione mi dà quella sensazione, allora mi devo alzare per andare in bagno a urinare. Vabbè, ciao Giotto, ciao Natalino, ciao Claudio, ci sentiamo, ciao. Ok, ciao Giulio, buona serata allora, e riguardati. Sembra di